Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Interno familiare. Anastasia Finizio, la figlia maggiore di Angelina Finizio e del fu Ernesto, che era stato uno dei primi parrucchieri di Chiaia e solo da qualche anno si era ritirato in un recinto soleggiato e tranquillo del cimitero di Poggioreale, era rientrata da poco dalla messa grande, era il giorno di Natale, in Santa Maria degli Angeli a Monte di Dio, e ancora non si decideva a togliersi il cappello. Alta e magra, come tutti Finizio, con la stessa eleganza meticolosa e brillante, in contrasto con lo squallore e non so che decrepitezza delle loro figure cavalline, andava avanti e indietro per la camera da letto che divideva con sua sorella Anna, non riuscendo a contenere una visibile agitazione. Solo pochi minuti prima, tutto era indifferenza e pace, freddezza e rassegnazione nel suo animo di donna giunta alla soglia dei 40 anni, dopo aver perduto, quasi senza accorgersene, ogni speranza di un bene personale ed essersi adattata piuttosto facilmente ad una vita da uomo, tutta responsabilità, contabilità, lavoro, aveva un negozio di maglieria, là dove suo padre aveva pettinato le più esigenti testine di Napoli, e con quello portava avanti la casa. Madre, zia, una sorella, due fratelli, uno dei quali stava per ammogliarsi. E, salvo il piacere di vestirsi come una donna di grande città, non conosceva e non desiderava altro. Ed ecco, in un momento non era più lei. Non che stesse male, affatto, ma provava una felicità che non era proprio felicità, quanto un rifluire dell'immaginazione che credeva morta, uno smarrimento. Il fatto di essersi conquistata un'ottima posizione, di vestire bene e le molte soddisfazioni morali che le venivano dal mantenere tutta quella gente, eccole sparite o quasi come un turbine di fronte alla speranza di ritornare giovane e donna. Nel suo cervello in quel momento c'era un vero scompiglio e pareva che un'intera folla vociasse e si lamentasse implorando pietà di fronte a qualcuno che era venuto ad annunciare in modo ambiguo qualcosa di straordinario. Ancora intontita da tutti quei gridi dell'organo, da quel furore di canti, abbagliata da quei rossi e quei bianchi scintillanti d'oro e d'argento dei paramenti sacri dal tremolio dei lumi, con la testa pesante per l'odore intenso dei gigli e delle rose misto a quello funebre dell'incenso, mentre con le braccia, appena sulla soglia, cercava l'aria modesta di tutti i giorni, il sole, aveva incontrato Lina Stassano, sorella della sua futura cognata, e saputo così che era tornato a Napoli, dopo anni di assenza, certo Antonio Laurano, un giovane al quale lei aveva pensato. «Di salute non sta male, ma dice che è stanco di navigare e vuole trovare un impiego a Napoli. Se vedi Anastasia Finizio, mi ha detto, falle un saluto particolare». Tutto qui. Poteva essere molto e nulla. Ma Anastasia, che era stata sempre così fredda e prudente, questa volta, come se qualcosa si fosse guastato nel suo rigido meccanismo mentale, si lasciava andare come incantata alle divagazioni di un sentimento oscuro quanto straordinario. «Ah, Madonna!» andava dicendo nella sua mente, senza rendersi conto lei stessa di quel misterioso parlare. «Se fosse vero, se Lina Stassano non si fosse sbagliata, se questo davvero fosse il sentimento di Antonio per me, ma perché non potrebbe essere? Che c'è di strano? Di aspetto non sono male, e neppure posso dirmi vecchia, sebbene 20 anni siano passati. Illusioni non me ne faccio. Guardo la realtà, guardo. Sono indipendente, ho una posizione, denaro. Lui è stanco di navigare, forse deluso, vuole sistemarsi a Napoli. Potrei aiutarlo. Forse ha bisogno di sicurezza, di affetto. Non cerca più la ragazza, ma la donna. E io, d'altra parte, che vita faccio? Casa, negozio, negozio, casa. Non sono come mia sorella Anna, che porta ancora i capelli sciolti e suona il pianoforte. Di me, ora, i giovani non si accorgono più. E se non vestissi bene, non usassi un profumo di costo, neppure buongiorno mi direbbero. Se non sono ancora vecchia, però sto per invecchiare. Non me ne accorgevo, ma è così. O Antonio ha davvero un sentimento per me, mi ama e ha bisogno di me, oppure eccomi perduta. Sì, sì, avrò sempre i miei vestiti, si capisce, ma anche le statue in chiesa sono vestite ed è vestita la gente nelle fotografie. Lei mai aveva parlato così. Nel suo linguaggio c'erano entrate, uscite o al più interessanti osservazioni sulla moda di quest'anno. Perciò, meravigliata e abbattuta, come chi scorge per la prima volta un paese misero e silenzioso e gli dicono che lì ha vissuto credendo di vedere palazzi e giardini dove non erano che ciottoli e ortiche, e considerando in un baleno che la sua vita altro non era stata che servitù e sonno, e ora stava per declinare, smise di passeggiare, guardandosi intorno con aria stupita. La finestra di quella stanza, che era ampia e pulita, ma mobiliata poveramente, con i due lettini di ferro, un armadio e qualche sedia disposta qua e là sull'ammattonato rosso, e sui lettini e sull'armadio un ramoscello d'ulivo della Pasqua avanti, quella finestra era aperta ed entrava di fuori una luce intensa di un cupo turchino e nello stesso tempo fredda, come se il cielo da cui proveniva fosse del tutto nuovo per questa terra, senza il vecchio intimo calore di una volta. Non si vedeva una nube, la più piccola macchia, ma neppure il sole. E quel poco di muri e di cornicioni che apparivano a livello del davanzale, scoloriti, aerei, come un disegno, sembravano la bava di un mondo, più che la sua realtà. Degli abitanti di Napoli non si avvertiva in quel momento una voce, un grido. E Anastasia, in piedi vicino ai vetri, la fronte lievemente aggrottata, il cuore pesante, non sapeva più se di speranza o d'angoscia. Guardava giù, non riconoscendo quasi più i luoghi e le persone. Le pareva che quella strada in salita, tre piani sotto di lei, avesse una profondità e una tristezza misteriose. Il selciato, ancora scuro per la pioggia notturna, era sparso di tutti i trucioli e i rifiuti della vigilia. Molta gente andava o tornava dalla messa, e incrociandosi si fermava un momento a scambiare gli auguri, un saluto, ma bisognava fare attenzione se si volevano distinguere le voci. «Buon Natale! Auguri a voi e a tutta la famiglia, altrettanto!» Per quanto l'occhio riusciva a vedere, molte finestre, data la bellezza della giornata, erano spalancate, e si vedeva qua e là una testata di ferro nera ed esile, la coperta bianca di un letto, l'ovale dorato di un quadro nero, un ramo scintillante di lampadario e il parato marrone a colonnine dorate di un salotto. Nelle cucine si lavorava attivamente, ma gli uomini erano tutti in libertà, chi a farsi la barba, chi buttato inerte al davanzale di una finestra, chi affacciato tra i vasi rossi di un balcone. Qualcuno, sigaretta in mano, il viso butterato dalle passioni e dalla noia dei giovani napoletani, spiava con indifferenza o malinconia l'eccessiva profondità del cielo. Si poteva sentire, a farci caso, «più belle te, o sole mia», ma persisteva nelle abitazioni come nelle strade un silenzio non lieto, quasi che la festa cristiana, stesa temporaneamente sul formicolio dei vicoli, non fosse tanto una festa quanto la bandiera di un esercito sconosciuta levata al centro di un villaggio devastato e bruciato. Tutto vestito a festa, affacciato a un balcone attiguo alla finestra De Finizio, un ragazzo sui 13 anni, mani in tasca, il viso giallognolo e serio dei malati gravi, fantasticava e sputava. Passava un cane, in fretta, di tanto in tanto. «Questa vita sarebbe stata un sogno», continuava a pensare Anastasia, cercando di irrigidirsi, di superare quel vago spavento, quella debolezza e confusione dei suoi pensieri attraversati da una luce così insolita e crudele. Come un viottolo che sembra morire in un campo sterrato. E invece a un tratto si apre in una piazza piena di gente, con la musica che suona. Improvvisamente, ecco, andrei ad abitare in una casetta mia. Non andrei più al negozio. Già, quella vita non mi è mai piaciuta. Sentivo che un giorno doveva finire. Una liquidazione soddisfacente non me la toglie nessuno. 2 milioni posso chiedere, anche di più per un buco a chiaia. Con 2 milioni la casa è fatta. Potrei prenderla qui vicino, così tutti i giorni venga a trovare mamma. Si vide trafficare in quegli ambienti una mattina d'estate, stendere i panni, cantare. Ma benché rimanesse ferma davanti a questa immagine, essa non le dava alcuna allegrezza. Era come assistere alla felicità di un'altra. Pensò ancora alle sere d'estate, quando avrebbero mangiato in terrazza al lume di una lampada elettrica nascosta nella pergola, che avrebbe illuminato sulla tavola le sue mani dure di lavoratrice e fatto luccicare nell'oscurità i bei denti di Antonio. Ed ecco, pensando a quei denti, vide meravigliata che tutta la sua esaltazione veniva di là, da quella bocca più giovane della sua, anzi giovane, da quella salute e giovinezza che lei non aveva mai posseduto. E come erano passati tanti anni, 20, 30, senza sapere questo, senza volerlo e sospettarlo neanche. E come adesso lo desiderava! Terribilmente infelice, la figlia maggiore di Finizio non aveva nessuna espressione, e i suoi momenti più tristi erano anche quelli perfettamente banali. C'era della stupidità nella sua mente, ecco tutto. Una sonnolenza, come l'effetto di uno sforzo sostenuto molti secoli indietro. Non poteva pensare, vivere. Qualche cosa era vivo in lei, e neppure poteva dirlo. Questa era la sua bontà, la sua forza, questa incapacità di intendere e di volere una vita sua. Soltanto ricordare poteva, di quando in quando, vedere, e poi subito quel lume, quel paesaggio era spento. Ricordava Antonio come fosse ieri, non alto, ma solido come una colonnetta, con i capelli castani e la pelle scura e quei suoi occhi tristi di uomo e la bocca dai fitti denti bianca nel sorriso e quei suoi modi affettuosi, quasi venati di pietà, che aveva con tutti come tornasse sempre da lontano. «Come state, Anastasia?» «E che volete? La vita è uguale.» «È vero, ma potrebbe essere più bella.» E chissà che cosa alludeva con quel «più bella». «Venite a trovarci qualche volta, che ne avremo piacere.» Ecco tutto quel che sapeva dirgli lei quando si incontravano, e con un'aria così stupida, altera, come se fosse felice, come se le bastasse il suo lavoro e la soddisfazione di mantenere tutta la famiglia da quando era mancato il padre, e la potessero consolare tutti quegli abiti che si faceva. Invece non era vero. 1000 volte avrebbe voluto buttare via tutte queste soddisfazioni e andare a fare la serva in casa di lui e servirlo, servirlo sempre come una vera donna serve un uomo. Grandi colpi di campana vennero da 2 o 3 chiese insieme e a quel suono terribile e familiare che parlava di cielo e non di vita, Anastasia si ridestò. Gli occhi le si riempirono di lacrime. E staccatasi dalla finestra, riprese a passeggiare su e giù per la stanza, mentre si ripeteva meccanicamente con la sua aria assorta: «Sì, come una vera donna serve un uomo. Sì, nient'altro.» «Anastasia! Anastasia! Dov'è Anastasia?» Questi erano Anna e Petrillo. La sua unica sorella, bianca in viso a 18 anni, con la bellezza delle rose ordinarie, grandi occhi sporgenti e dolci, pieni in quel momento di un vivo sorriso, e Petrillo, con la sua aria di scarafaggio studioso, gli occhiali piantati in mezzo al piccolo viso verde, si precipitarono nella stanza dove Anastasia Finizio si agitava immersa in quei suoi nuovi pensieri. Veramente chi si precipitò fu Anna, col vestito bianco che le si allargava nella corsa intorno ai fianchi stretti, una mano quasi per vezzo vicino ai capelli biondi fermati da un nastro azzurrino. Petrillo, in abito da uomo malgrado i suoi 16 anni, veniva dietro di pochi passi, reggendosi gli occhiali perché un vetro era rotto e il minimo movimento poteva farlo cadere. «Hai visto chi è arrivato?» «No», rispose Anastasia ritornando alla finestra e fingendo di guardare fuori. Si sfilava i guanti, se li rinfilava col cuore per aria e tutto il suo vecchio sangue alla fronte, immaginando di sentire fra un momento quel nome. Mai si era vergognata tanto. Ma si sbagliava. «Don Liberato, il fratello di Donna Amelia, da Salerno, ha mandato a dire che dopo pranzo viene a trovarci». «Sì», disse Anastasia, sentendo con sollievo che il cuore calmava i suoi battiti e la fronte si raffreddava. Nello stesso tempo fu come se quell'ombra, quella tristezza che in tutto il suo straordinario fantasticare era spuntata continuamente ad oscurare i colori, avesse preso corpo e si fosse seduta come una mendicante sulla sedia nell'angolo della stanza. La sua eccitazione cadde di colpo e poté guardare i fratelli. «Perché? Donna Amelia non viene?» disse tranquillamente. Tutta notte è stata male», rispose Anna andando a specchiarsi nel vetro della finestra con un'indolenza che non era soltanto la mollezza meridionale ma anche il languore di un sangue scarso di vita. «E il medico è venuto anche questa mattina, non hai sentito?» «Anastasia fuori dai denari, non sente niente», disse maliziosamente Petrillo e si aspettava una risposta irritata, ma sua sorella non disse nulla. «Dice mamma», continuò Anna indolentemente, «se vuoi togliere dalla cassa i bicchierini verdi col filo dorato, a pranzo vengono Dora Stassana e Giovannino». Questo Giovannino era il fidanzato di Anna, un commesso di libreria, piccolo, con i baffi rossi, e benché Anastasia non lo considerasse molto, il suo cuore ebbe una stretta pensando come sua sorella, di 20 anni più giovane di lei, poteva parlare semplicemente di tutto quanto era per lei motivo di confusione e tormento. Anche il pensiero di doversi piegare, così ben vestita, sul baule in camera della madre per toglierne tra la polvere quei bicchieri che la signora Finizio aveva così cari, tanto da adoperarli solo nelle occasioni, le aumentò quel freddo interiore. Anna non faceva che suonare il pianoforte e passeggiare. Per Anna non esistevano doveri, noie. Bella vita quella di Anna. «Petrillo, esci un momento fuori», disse con voce opaca. «Io mi sono fatta ora le unghie», disse Anna timidamente. «Scusa». Neppure questa volta Anastasia rispose nulla. Mentre il ragazzo usciva fischiettando, con l'aria di superiorità che aveva acquistato da alcuni mesi, da quando aveva cominciato a scambiare qualche parola impegnativa con una ragazza, Anastasia si sfilò il mantello di lana blu che aveva visto tutta quella sua grande gioia e poi quelle perplessità, quel dolore, e lo distese sul letto. Con la medesima cura, levandone prima le spille, si tolse dal capo il cappello blu. Aperse la borsa, anche blu, ne prese un fazzoletto profumato, bianchissimo, e lo tenne un attimo sotto le narici. Infine sedette sul letto, sfilandosi, senza toccarle con le mani, le scarpe che spinse in disparte. Nel fare tutte queste cose perdeva tempo. C'era una specie di silenzio in lei e anche un'apprensione oscura. Svanito del tutto, lontano quel momento commosso di poco prima, sentiva che la sorella giovanetta la guardava. Anzi, la osservava con quei suoi occhi grandi e belli, appena stupiti dei giovani destinati a morire precocemente. Aveva un polmone toccato, Anna, e gliene veniva una sensazione sottilissima di vergogna, di colpa, come se fosse già vecchia, e tutte quelle stoffe, cipri e profumi che metteva addosso alla sua persona costituissero un furto, un peccato, qualcosa che veniva sottratto alla naturale esigenza dei fratelli, di Anna. Le pareva 1000 anni che la sorella uscisse dalla stanza e smettesse di guardarla. «Mamma dice pure se va un momento in cucina a darle una mano. Io devo ripassare le canzoni». Sì, ora vengo, rispose pianamente Anastasia. Mi riposo un momento e vengo. Ma già la sorella non le badava più. Vicino alla finestra aperta si specchiava nel vetro, dove si vedevano anche delle terrazze, facendo ondulare leggermente la graziosa testa bionda. Si aggiustava il nastro azzurro e canticchiava: Cor, cor ingrato. Con la sua voce indifferente, mite. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.